Europa 24. E torniamo a parlare anche in questo spazio dei fatti di Parigi. Il punto su quale strategia l'Europa possa mettere in atto contro il terrorismo è stato fatto questa mattina al Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei a Bruxelles. Ci informa in diretta Laura Bettini. Buongiorno, quello di Parigi è stato un attacco contro la civiltà, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Un attacco contro la civiltà per il quale bisogna unire le forze diplomatiche, politiche e militari. E così appunto Federica Mogherini ha invitato l'inviato ONU per la Siria Staffan de Mistura per fare il punto con i ministri europei del percorso stabilito a Vienna nel fine settimana per la pacificazione della Siria, un paese che sappiamo essere centrale per la lotta al terrorismo dell'ISIS. The European Union is ready to support. L'Unione Europea, dice Mogherini, è pronta a fare la sua parte, a portare i gruppi di opposizione allo stesso tavolo, iniziare la transizione politica, ma le posizioni europee e della NATO su come intervenire in Siria e al fianco di chi sappiamo essere molto diverse, questo è emerso anche dal vertice del G20. Quale può essere il ruolo italiano? È stato chiesto al ministro degli esteri Gentiloni prima dell'incontro, questa è la sua risposta. L'Italia è orgogliosa innanzitutto di quello che stiamo facendo. Quando io vedo i Peshmerga curdi liberare Sinjar, vedo le uniche forze che combattono sul terreno assieme ovviamente alle forze regolari irachene, e so che il paese che coordina l'addestramento di queste forze è l'Italia, il paese che fornisce armi ai Peshmerga è l'Italia. E così il ministro degli esteri Gentiloni allo stesso vertice si parlerà anche di migrazione e le conclusioni alle 16. Grazie a Laura Bettini. A proposito di migrazioni, meno di 100 i ricollocati dall'Italia, quasi due mesi dall'annuncio dell'accordo fra i paesi europei. Sono appena 86 i richiedenti asilo ricollocati finora. A quasi due mesi dall'annuncio solenne dell'accordo fra i paesi europei per il ricollocamento di 120.000 rifugiati da Italia e Grecia, dal nostro paese ne sono partiti meno di un centinaio. A oggi, secondo dati ufficiali del Ministero dell'Interno, sono 48 quelli partiti per la Finlandia e 38 che sono andati in Svezia. Le promesse solenni, insomma, sono rimaste per ora sulla carta, tanto che a Malta la settimana scorsa la frustrazione ha spinto Jean-Claude Juncker a dire chiaro e tondo che ai ritmi attuali la ricollocazione sarà completata nel gennaio 2101. Se questa è la cattiva notizia, ce ne sono due buone per l'Italia. La prima è che il numero di migranti sbarcati sulle nostre coste è in diminuzione. Da gennaio ad oggi sono arrivati in 142.000, in calo dell'8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La seconda buona notizia è che dopo le prime resistenze, l'equa distribuzione nelle regioni italiane sta funzionando. Se cinque mesi fa la Sicilia sosteneva da sola una percentuale del 22%, ora questa è scesa al 12%. Anche nel Lazio le cose vanno meglio, si è passati da un 12% rispetto alla popolazione a un 8%. Contemporaneamente la presenza di migranti è salita in Lombardia dal 9 al 13, in Veneto e in Toscana dal 4 al 7, mentre resta esigua in Umbria e Trentino 2% e pressoché nulla in Valle d'Aosta 0,2%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eurostat rivede al rialzo la stima dell'inflazione dell'eurozona di ottobre, che si assesta a 0,1%, tasso in risalita da almeno 0,1% di settembre. Un anno fa l'inflazione di Eurolandia era 0,5%. La spinta al rialzo è dovuta soprattutto ai prezzi di verdura, ristoranti, caffè e frutta, in calo invece benzina, gasolio e gas. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.